Risveglio dei sensi. Su M2O comincia il cammino di Gigi D'Agostino. Risveglio dei sensi. Buongiorno, sono Gigi D'Agostino. E io adesso suono un po' di musica. Cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Se volete mandare le vostre dediche o volete far sentire il vostro pensiero, mandatemi il vostro SMS al numero 333 64 67 662. Ho bisogno di riflettere. Movimento incondizionato. Ipnotico elettronico. Settembre del 1981,

Quando dico altre storie, intendo dire quello che voglio dire, ma che non riesco a dire. Cioè, brivido lungo la schiena. Paesaggi meravigliosi che la musica riesce a disegnare intorno a noi. Ogni

Volete scrivermi? 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. A volte è scontrosa, a volte è più dura. Ma la vostra mente viaggia sicura. Viaggia sicura. In ogni dove, lento, violento e altre storie, il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora la musica c'è. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. cammino di Gigi D'Agostino. Ho bisogno di un po' di tempo. Percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Coincidenze armoniche. Coincidenze armoniche. Gigi D'Agostino. We'll be right back.

Signore e signori, in console c'è Gigi D'Agostino. Abbraccio armonioso. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Le cose vanno viste sotto tutti i punti di vista. Il cammino di Gigi D'Agostino. People are far too things you should know.